Vacanze in Turchia? No, grazie. Nel dicembre 2015 il primo ministro turco ha presentato le nuove misure per l'industria del turismo con lo slogan «Scopri il potenziale». Obiettivo? Aumentare il numero dei turisti a 50 milioni e le entrate generate dal turismo a 50 milioni di dollari all'anno. Ma ogni dollaro speso dai turisti stranieri fornisce al governo i mezzi per continuare la sua massiccia campagna di repressione della popolazione curda nel sud-est della Turchia. Occupazione militare che devasta villaggi, siti archeologici e naturalmente la vita delle persone che vi abitano. Da oltre 180 giorni, infatti, lo Stato turco ha imposto il coprifuoco in 56 località curde, oltre 1 milione le persone colpite, oltre 200.000 i profughi, oltre 250 i civili uccisi, dozzine di giornalisti arrestati. Vi invitiamo a boicottare la Turchia e la sua occupazione militare del sud-est. Vi chiediamo di boicottare i crimini di guerra della Turchia e le morti di civili. Vi chiediamo di boicottare la campagna della Turchia di intimidazione di massa, violenze, tortura e uccisioni. Vacanze in Turchia? No, grazie. Boicotta il turismo in Turchia.